la responsabilità, l'impegno per una sempre più autentica fede in Cristo è posta nel cuore di ognuno di noi, di ogni credente, dalle parole pronunciate da Gesù. Le ha pronunciate ai dodici nell'intimità drammatica della cena pasquale. Vorrei lasciare due osservazioni sul testo, attorno a questo testo. La prima osservazione riguarda questo brano del Vangelo collocato in situazione. Siamo vicini agli eventi ultimi della vita di Gesù. C'è l'annuncio del tradimento di Giuda, c'è l'intervento del discepolo che Gesù amava, ci sono le parole di Gesù a Giuda: quello che vuoi fare, fallo presto. I discepoli non capiscono, c'è l'annuncio del rinnegamento di Pietro. E poi il Vangelo ci mette lì questo: vi do un comandamento nuovo. Tra il tradimento di Giuda e il rinnegamento di Pietro c'è questo annuncio. Allora, una seconda osservazione che riguarda soprattutto questo termine nuovo, non nel senso nostro, nuovo nel senso che non c'era prima, significa ultimo, definitivo, completo. Perché dico questo? Mi riferisco a tre evangelisti. L'evangelista Marco riporta: qual è il primo comandamento? Cosa sta scritto? Ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore. E il secondo è simile a questo: ama il prossimo tuo come te stesso. L'evangelista Luca dice: amare Dio e il prossimo sono la stessa cosa. L'evangelista Giovanni dice: amare il prossimo è l'unico comandamento. Perché se uno ama il prossimo, dice Giovanni, conosce Dio. Allora vi lascio un comandamento nuovo: amatevi gli uni gli altri e, attenzione, come io vi ho amato. Il testamento vero è lì, in quell'avverbio, in quella parolina lì, una parolina che meriterebbe di consumare un po' la nostra vita spirituale attorno a questo come. E in queste parole è dichiarato il senso, il destino, le ragioni d'essere della vita dei singoli uomini e donne, della Chiesa, della società, dell'umanità. Realtà di comunione. Muri abbattuti, esistenze riscattate dalla disperazione, volti di Dio riflessi visibilmente nella concretezza di una storia che ognuno può narrare di se stessi o di chi ama, di chi è vicino. Vi invito proprio a tenere presente che è un comandamento nuovo, ma la novità sta nel come, che vuol dire metodo, che vuol dire misura. Voi capite benissimo che vi è differenza fra il dire amatevi è il dire amatevi come. Non è che sono ingenuo, un pochino, un po' sognatore, ma è anche bello essere un po' sognatori. Però non sono ingenuo. Mi domando, ma io so cos'è un'economia di condivisione? Amatevi come? Una famiglia di pace? Una scuola? Una competizione politica, sportiva, una costruzione fisica, ambientale di una città. Che sia costruzione di una buona convivenza, non di separazioni, di disuguaglianze. Sappiamo cosa significa una punizione data a chi sbaglia? Ma secondo una cultura della riabilitazione, non rancorosa, ma di cura, non è sufficiente il sentimento. Qui occorre proprio la lucidità delle scelte. Perché, non dimentichiamolo, perfino le SS accanto ai forni crematori avevano le gabbie dei canarini e suonavano anche il violino. Allora, due considerazioni per noi, se avete la pazienza, e provo a ragionare, a riflettere con voi così. Ogni motivazione che fa palpitare il cuore, che fa andare verso l'altro, verso gli altri, verso l'altra, che tiene presente l'altro, che riconosce l'altro, l'altra, gli altri, la modalità con cui ci si accosta all'altro, agli altri, all'altra. Mi viene di citare, una volta tanto vado a piluccarlo, c'è un libretto che è scritto da uno psicologo nel campo di Auschwitz. E in tutto questo suo menage, dove fa delle cose straordinarie, ma le fa così. No, ma non perché è psicologo, non gliene fregava niente a nessuno. Ma sapete il filo conduttore di tutto il suo discorso? Che amava sua moglie, che non sapeva più neanche se esisteva ancora. No? Ma la forza dell'amore, la forza di pensare che lui poteva amare qualcuno che lo amava a sua volta. Capolavoro. Il modo di accostarsi, la tenerezza, la passione, il coltivare i desideri insieme, il donarsi, la sopportazione, il contrastare, il lottare, magari fino a rimetterci qualcosa di sé, il sognare senza stanchezza, avere la forza di sperare sempre di più, curare le ferite, smontare i pregiudizi, non arroccarsi sulle posizioni dei nostri schemini mentali, così da creare muri, accogliere con pazienza, il piangere accanto, la gioia prorompente, la sofferenza dove è difficile trovarci un senso, la felicità che trabocca molte volte, piccoli gesti, piccole cose, ma una fede che abbraccia tutta la storia, la nostra storia personale. Tutto questo si impara da Lui. Amatevi come? È chiaro che non può esserci alternativa. Se non voglio sbagliarmi, se cioè non voglio contrabbandare, mistificare, annacquare con delle piccole esperienze di qualche opera buona così, io le chiamo il brodino della bontà, i brodini della bontà, no? Di queste le famose pratiche religiose, per fortuna che un po' si stanno smontando, speriamo che se ne smontino ancora tante, no? Per arrivare a cogliere la sostanza dell'annuncio evangelico. E lo... Sì, facciamo finta di volerci tanto bene, insomma, cose che avvengono sotto i nostri occhi, oltre che l'occhio della tele. Le belle intenzioni, sarebbe bello se... Allora un'ultima piccola considerazione per uscire un po' dal vago. Per amare come Lui ci ha amato, in verità bisogna che, e cito il Vangelo, il fuoco non sia nascosto. Domando, magari un po' spudoratamente se volete. C'è qualcuno di noi che non possiede la capacità di amare? Occorre forse porre segni leggibili, piccoli, che non è una ostentazione. Bisogna che la lucerna non sia posta sotto il moccio. Cosa avverrebbe se ci si comunicasse con naturalezza le esperienze, le letture dei bisogni, i tentativi di risposta insieme? Forse mi avete sentito ancora dire che la crisi, la cosiddetta crisi, sta uccidendo un po' l'egoismo, ci risveglia. Questo lasciar perdere le paure artificiali, peraltro, i rancori, una società di rancori, no? Per fare una comunità di compartecipazione. Si tratta di tradurre in esperienze, magari che sembrano insignificanti, che non hanno i titoli dei giornali, ma traducono quella parolina come, perché è questo come che decide proprio anche della visibilità della risurrezione di Cristo e anche della possibilità che possa essere testimoniata. Una delle ultime frasi del Vangelo di oggi: da questo piccolo avverbio riconosceranno che siete miei discepoli. Insomma, pensateci voi adesso. Però mi incoraggia il fatto che il come di Dio e il come dell'uomo stanno insieme.